Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ribadiamo sullo Ius Soli che una cosa giusta fatta al momento sbagliato può diventare una cosa sbagliata e può anche diventare un regalo alla Lega. Insomma, avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una delle prime ripercussioni del voto in Germania è quello di, diciamo, far cambiare idea ad Alfano di Alternativa Popolare, alleato, diciamo, del PD nella maggioranza di governo, sullo Ius Soli. In realtà questa cosa già Alfano l'aveva detta nei giorni scorsi, diciamo che l'ha detta con una certa schiettezza, nel senso non ha detto giusto, sbagliato lo Ius Soli, sbagliato e quindi non lo vogliamo approvare, oppure giusto, lo approveremo. Ha detto è una legge giusta, però nel momento sbagliato, perché faremo un regalo alla Lega, visto che le elezioni sono alle porte, e quindi per il momento lo archiviamo. Ecco, siccome se ne è parlato tanto, se ne parla da mesi, mentre il PD risponde nuovamente, il regalo alla Lega invece è inginocchiarsi, diciamo, a quelle che la sua idea su questo tema. Insomma, la politica funziona così, la cosiddetta realpolitik. Ce ne occuperemo no, in realtà, delle infiltrazioni, soprattutto in Lombardia, dell'Andrangheta in ambiti politici e imprenditoriali. Poi ci collegheremo con la Francia, perché Macron oggi ha fatto un discorso di rilancio dell'Europa in un contesto piuttosto difficile. Probabilmente, se ieri la Merkel non avesse vinto piuttosto male, diciamo con poca soddisfazione, gli argomenti sarebbero stati altri. Oggi ha puntato soprattutto sulla sicurezza e sull'immigrazione. Quindi partiamo tra pochissimo, come sempre, con tutte le notizie che vi devo raccontare in sintesi prima e poi approfondendole con gli ospiti qui Effetto Notte. Però prima vi ricordo che per i vostri commenti c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi WhatsApp, che è 349 238 6666. Sapete poi che, purtroppo, vista la frequenza di questi atti criminali, parliamo spesso con Effetto Notte di violenza sulle donne. Oggi c'è anche una notizia che grida vendetta. L'uomo che il 31 luglio, quindi meno di 2 mesi fa, aveva ucciso strangolando la sua fidanzata di poco più di 20 anni, l'aveva portata in giro con l'auto, il suo cadavere, ha fatto 2 mesi di carcere e praticamente da oggi è in arresti domiciliari. Questa, insomma, è la giustizia in Italia per quanto riguarda questo tipo di crimini. Ma partiamo con la sintesi della giornata. Il discorso di Macron: il presidente francese lancia la nuova Europa, serve un esercito comune, dice, e sui migranti un ufficio europeo dell'asilo. 'Ndrangheta in Lombardia, maxi blitz contro le infiltrazioni nell'imprenditoria e nella politica lombarda, 24 le persone arrestate, tra cui il sindaco di Seregno. Sistema di omertà e convenienza, dice la procuratrice Bocassini. Ius Soli, Alfano lo archivia dicendo che approvarlo sarebbe un regalo alla Lega. Sbaglia, dicono dal PD, continuiamo a cercare i voti per approvare la legge. Femminicidi: a Udine uccise la fidanzata e vagò per ore con il suo corpo in auto, dopo 2 mesi che ha fatto il carcere è ai domiciliari. Vaccini: il Consiglio di Stato dà torto a Zaia, sia l'obbligo delle vaccinazioni, e si registra purtroppo la quarta vittima del morbillo nel 2017, un uomo di 42 anni. L'Italia coi capelli bianchi: gli anziani italiani sono i più longevi ma i più sofferenti, dopo i 75 anni stanno peggio che nel resto d'Europa. Calcio: per la Champions il Napoli in campo, affronta gli olandesi del Feyenoord, partenopei a caccia quasi obbligata dei 3 punti. Partiamo quindi dalla Francia, dal discorso sull'Europa tenuto dal presidente francese Macron all'Università Sorbonne, un discorso sulla nuova Europa in cui propone una forza di intervento militare comune con un bilancio della difesa condiviso fra i partner europei nel corso di 10 anni. Sulla sicurezza dice: non cederò nulla a chi promette odio, divisione, ripiegamento nazionale. Sui migranti poi l'invito a non lasciare, dice, i nostri partner sommersi senza aiutarli a difendere le frontiere, e spinta per un ufficio europeo dell'asilo per i richiedenti asilo. Ci collegheremo quindi, vi dicevo, tra poco con la Francia per andare un po' più nel dettaglio di questo discorso di rilancio dell'Europa da parte di Macron, e anche in vista poi dell'incontro che ci sarà domani, importante, a Lione, incontro bilaterale tra Macron e il nostro presidente del Consiglio Gentiloni. Restiamo sempre all'estero, in Spagna, parlando del referendum per l'indipendenza della Catalogna dalla Spagna, che si dovrebbe tenere il prossimo 1 ottobre, ma che Madrid non accetta. Il primo ministro spagnolo Rajoy, nella conferenza stampa alla Casa Bianca con Donald Trump, ha detto: spero si torni al buon senso e che questa storia possa terminare al più presto. Questa vicenda non porta nulla di buono ai cittadini, dice Rajoy, dobbiamo avviare una nuova fase in cui sia centrale il dialogo. E ora in Italia, con l'operazione anti-andrangheta in Lombardia, un maxi blitz contro le infiltrazioni dell'andrangheta nel mondo dell'imprenditoria e della politica lombarde, 27 le misure cautelari, fra gli arrestati ai domiciliari c'è anche il sindaco di Seregno, in provincia di Monza, Edoardo Mazza, di Forza Italia, accusato di corruzione, e poi indagato per corruzione anche l'ex vicepresidente della regione Lombardia, ora consigliere regionale, Mario Mantovani, sempre di Forza Italia. La procuratrice di Milano Boccassini commenta: posso dire che c'è un sistema fatto di omertà e di convenienza da parte di chi si rivolge all'antistato per avere benefici, notizia che poi tra poco approfondiremo. Ma intanto sentiamo il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni, che ha parlato questa mattina a Radio 24 sull'operazione. Sappiamo che l'andrangheta è l'associazione mafiosa più pericolosa, più insidiosa, perché si insinua nel tessuto economico, a rapporti con le istituzioni. Bisogna capire, bisogna scoprire questi legami e tagliarli di netto, ovviamente. E chi rappresenta il popolo nelle istituzioni deve ovviamente stare lontano e rifiutare ogni rapporto con queste persone. Se poi qualcuno ci casca, beh, è giusto che venga estromesso immediatamente dalla politica e dalle istituzioni. A proposito di politica, politica italiana, Alternativa Popolare, come avete sentito all'inizio, chiude allo Ius Soli. Legge giusta, dice Alfano, ma non è il momento giusto. Il giorno dopo l'avanzata della destra in Germania, Area Popolare affossa lo Ius Soli in Italia. Non è il momento, spiega Angelino Alfano, una questione chiusa, se ne riparlerà nella prossima legislatura. Alfano però ribadisce il sì alla legge elettorale. Ribadiamo sullo Ius Soli che una cosa giusta fatta al momento sbagliato può diventare una cosa sbagliata e può anche diventare un regalo alla Lega. Sul piano del contenuto sosteniamo il disegno di legge presentato dall'onorevole Fiano in commissione. Intanto però slitta anche il Rosatellum in commissione affari costituzionali alla Camera per una questione procedurale sollevata da MDP e da Movimento 5 Stelle, le due forze contrarie alla nuova legge elettorale, che sarà comunque in aula il prossimo 10 ottobre. MDP vota anche contro in commissione difesa al Senato, facendo andare sotto maggioranza e governo. I 5 Stelle invece continuano a discutere al loro interno, non ci sarà nessun direttorio, c'è adesso un capo politico che è Luigi Di Maio. Il vicepresidente della Camera vuole sedersi ai tavoli europei non per andare via dall'Unione, ma per discutere alcuni trattati che bloccano la crescita, come il parametro del 3% nel rapporto deficit-PIL. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come avete sentito, anche le elezioni tedesche quindi hanno influito sulla scelta del partito guidato da Alfano. La Germania della cancelliera si avvia intanto faticosamente verso un nuovo governo, ma non mancano le difficoltà nemmeno all'interno di Alternative für Deutschland, il partito appunto di estrema destra entrato ieri per la prima volta in Parlamento, protagonista di queste elezioni, perché la spaccatura adesso è ufficiale. L'AfD mette fisicamente piede nel Bundestag e cambia subito pelle e squadra. La portavoce federale del movimento, Frauke Petri, ufficializza la sua uscita dopo una progressiva marginalizzazione in contrasto con la linea sempre meno moderata del partito. Ma nel giorno in cui l'estrema destra entra nella Camera Bassa della Germania, il leader annuncia anche una correzione di tono. La campagna elettorale è finita, è ovvio che il linguaggio che si usa in Parlamento è diverso, ammette Alexander Gaudel. 94 sono alla fine i seggi assegnati alla Forza Nuova tedesca. Il suo debutto nel Parlamento viene festeggiato in piazza dagli estremisti neonazisti di Pegida a Dresda, in quella Sassonia dove la AfD è la principale forza. Bisognerà ora vedere quanti deputati potrebbero insieme a Petri lasciare il gruppo, il cui ingresso nel Bundestag pone anche problemi logistici. I liberali di Christian Lindner, nuovo ago della bilancia, rifiutano infatti di sedere accanto a loro, vorrebbero piuttosto essere collocati vicino a Verdi e CDU, i possibili alleati della cosiddetta ipotesi Giamaica. Ma ci vorranno ancora dei mesi prima di arrivare alla formazione del quarto governo Merkel. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. e quasi il 92% dei votanti si è espresso in favore dell'indipendenza nel referendum svoltosi nel Kurdistan iracheno. Vi ricordate, ne abbiamo parlato ieri collegandoci direttamente col nostro inviato, era ancora in corso le votazioni, però è dura la risposta di Baghdad, del governo iracheno, che dice: non rinunceremo mai all'unità del nostro territorio. Così ha detto il primo ministro Idir al-Abadi, perché dice la Costituzione dice che l'Iraq è uno. Risposta anche sul piano esecutivo: il governo centrale iracheno ha dato tempo fino a venerdì alle autorità della regione del Kurdistan per cedere la gestione dei loro aeroporti prima di ricorrere a un blocco degli scali. Ora ritorniamo sulle notizie italiane, parliamo di vaccini. Il parere del Consiglio di Stato sulla normativa vigente in materia di obbligo vaccinale, reso in risposta a un quesito del presidente della Regione Veneto Zaia, ribadisce che già a decorrere dall'anno scolastico in corso, per accedere ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, occorre presentare la documentazione che provi l'avvenuta vaccinazione. Ricordate che qualche settimana fa il presidente della Regione Veneto Zaia aveva detto che voleva ricorrere al Consiglio di Stato, insomma, perché non era d'accordo con l'obbligo vaccinale, però il Consiglio di Stato così risponde. Intanto si registra purtroppo la quarta vittima del morbillo nel 2017 in Italia. È un uomo di 42 anni, non vaccinato. Il caso si è verificato in Sicilia, notificato il 20 settembre dall'ASL di Catania. Gli esami specifici confermano la diagnosi di morbillo e il paziente era immunodepresso. E parliamo di femminicidi, perché è uscito oggi dal carcere Francesco Mazzega, 36 anni, che lo scorso 31 luglio, quindi vi dicevo meno di due mesi fa, aveva ucciso la fidanzata 21enne Nadia Orlando, l'aveva strangolata e aveva vagato per tutta la notte col suo cadavere in auto prima di costituirsi. Meno di due mesi dopo è stato scarcerato, il tribunale del riesame aveva disposto per lui i domiciliari a casa dei genitori e lì oggi si trova già dopo due mesi agli arresti domiciliari. La decisione di scarcerarlo aveva sollevato già moltissime proteste, l'intero paese in cui viveva la vittima Vidulis di Dignano si era mobilitato contro il provvedimento, era stata avviata una petizione, una raccolta firme, ma inutilmente. Lui ha ucciso la fidanzata e dopo meno di due mesi di carcere è ai domiciliari. Adesso parliamo di questa doppia mobilitazione questa settimana per la CGIL, che scenderà nelle piazze italiane il 28 settembre in occasione della giornata mondiale per il diritto all'aborto sicuro e legale e il 30 settembre contro la violenza sulle donne. Giovedì prossimo, fa sapere la CGIL, si terranno presidi, flash mob, assemblee, volantinaggi nelle città e nei luoghi di lavoro per rivendicare ancora una volta il diritto alla libertà di scelta, all'autodeterminazione delle donne, il diritto a vedere applicata una legge dello Stato, di fatto svuotata dalla troppa obiezione di coscienza. Quest'ultima, dicono dalla CGIL, ha raggiunto dimensioni preoccupanti. E poi con lo slogan "Riprendiamoci la libertà", la segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso, invita tutte le donne a scendere nelle piazze italiane sabato prossimo per le manifestazioni organizzate contro la violenza sulle donne, la depenalizzazione dello stalking che è avvenuta nei mesi scorsi, la narrativa con cui stupri e omicidi diventano un processo alle vittime. L'appello online a sostegno di questa mobilitazione ha già ricevuto moltissime adesioni. E poi occupiamoci anche dell'Italia con i capelli bianchi, perché gli anziani italiani sono longevi ma sofferenti a causa di qualche malattia cronica e con dolori fisici che ne limitano la qualità della vita, più per le donne che per gli uomini. E dopo i 75 anni vivono gli anziani italiani in condizioni peggiori rispetto a quelli europei. Questo è l'ultimo rapporto Istat sulla salute in Italia e nell'Unione Europea. Anche di questo poi ci occuperemo più tardi. Così come parleremo di Matera, che è capitale europea della cultura per il 2019, oggi il governo, il presidente del Consiglio Gentiloni, ha firmato un contratto istituzionale che stanzia 400 milioni per il rilancio di Matera in vista appunto di questo appuntamento così importante. E poi per chiudere c'è il calcio, c'è la Champions, c'è il Napoli in campo. Dario, come sta andando contro gli olandesi? Sì, cara Roberta, Napoli in campo e Napoli in vantaggio quando siamo intorno alla mezz'ora al San Paolo, decide ancora una volta una rete di Insigne intorno al decimo di gioco, bravo l'attaccante partenopeo a incunearsi nella difesa non troppo puntuale a dir la verità degli olandesi e a segnare con un preciso diagonale destro. Insigne che poi è stato anche protagonista di una scenetta curiosa, perché voleva dedicare il gol all'infortunato Milik, gli è stata passata una maglietta dalla panchina, ma non era quella di Milik, ma dell'altro polacco della squadra, Zieliński. Quindi tutto si è risolto con un sorriso. Poi Insigne ha preso la maglietta giusta e ha dedicato finalmente il gol al compagno infortunato. Rapidissimamente, tra gli altri risultati, da segnalare il vantaggio del Real Madrid a Dortmund contro il Borussia con la rete di Bale, e sempre nel gruppo del Napoli lo 0-0 al momento tra Manchester City e Shakhtar Donetsk. Caro Dario, rimani un attimo, voglio darti una bellissima notizia. Ah, dimmi. Per quanto paradossale, perché dovrebbe essere una roba così scontata, invece che giorno è oggi? Che data è? Oggi è 26? 26 settembre 2017. Sì. La notizia è questa: il re saudita Salman, il re dell'Arabia Saudita, ha emesso un decreto che permette alle donne del regno di guidare le auto. Tu sapevi che finora l'Arabia Saudita era l'unico stato al mondo dove le donne addirittura veniva vietato di guidare. Tra l'altro, recentemente proprio si sono viste finalmente anche donne sugli spalti di uno stadio, seppur non per una manifestazione sportiva, ma è stata autorizzata proprio in occasione di celebrazioni particolari a Riyadh e dintorni, la presenza contemporanea di donne e uomini uno stadio. Sembra pazzesco doversi felicitare per queste cose, no? In questa data, ma è così, caro Dario. Tra l'altro, non so se ricordi che qualche tempo fa varie donne avevano fatto, ribellandosi, dei selfie alla guida delle auto in Arabia Saudita clandestinamente, alcune arrestate, altre, insomma. Finalmente si è arrivati a questa conclusione. Volevo informarti per primo in assoluto, in assoluta mondiale. Ti ringrazio, sono assolutamente lieto. Che faccio? Rimango tutta la puntata o torno dopo? Torna dopo, vai, che ci dici come va il Napoli. Grazie Dario Ricci, adesso ci fermiamo brevemente dopo questa notizia, ci ritroviamo tra poco. Giusto gli aggiornamenti per chi viaggia, per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggi WhatsApp che è 349-238-6666. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Vi presento. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ho sintetizzato, le più importanti, nel racconto della giornata. Roberta Giordano, sempre con voi, ricordatevi puntualmente tutte le sere dalle 21 alle 22 insieme, così vi racconto che giornata è stata, tutti i giorni sarete informati sulle notizie più importanti e anche un momento per capire alcuni temi in particolare, approfondendoli con gli ospiti. Tra poco il primo tema e la prima ospite, intanto vi ricordo velocemente quali sono le notizie più importanti se qualcuno non ha acceso puntualmente alle 21, prima però giustamente qualche messaggio sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Per esempio Lino da Bologna scrive: Alfano, prescindendo da come la si pensi sulla legge do ius soli, si sa già che prevale la politica dell'opportunismo anziché delle opportunità. Dice così Lino perché oggi Alfano ha archiviato la legge sullo ius soli, dicendo che è una legge giusta nel momento sbagliato. Mentre Francesco da Piacenza, sempre su questo argomento, dice: io non sono leghista, ma se il PD continua con lo ius soli, alle prossime elezioni voto Lega. Vedete diversi pareri. Intanto ecco qua le notizie, vi dicevo, più importanti. Oggi in Francia il discorso di Macron sull'Europa per rilanciare la nuova Europa, dice serve un esercito comune, e sui migranti propone un ufficio europeo dell'asilo. 'Ndrangheta in Lombardia, ne parleremo tra pochissimo di questa maxi operazione. Poi sullo ius soli abbiamo sentito Alfano lo archivia dicendo che approvarlo sarebbe un regalo alla Lega, mentre il PD dice sbaglia, continueremo a cercare i voti per approvare la legge. Femminicidi a Udine, uccise la fidanzata e vagò per ore con il suo corpo in auto lo scorso 31 luglio, dopo due mesi in carcere, ora è ai domiciliari. Vaccini, il Consiglio di Stato dà torto a Zaia, sia l'obbligo delle vaccinazioni. L'Italia con i capelli bianchi, gli italiani anziani sono i più longevi, ma i più sofferenti dopo i 75 anni stanno peggio che nel resto d'Europa. E poi questa notizia che vi ho dato poco fa, appena battuta dalle agenzie, le donne saudite potranno guidare l'auto, finora non era mai stato possibile, dipende da un decreto che ora ha firmato il re saudita Salman. Per il calcio avete sentito che in Champions c'è il Napoli contro gli olandesi del Feyenoord. Cominciamo quindi con questa grande operazione anti-ndrangheta che è stata effettuata oggi in Lombardia contro le infiltrazioni nel mondo dell'imprenditoria e anche della politica lombarde. Questo maxi blitz che ha portato a 24 arresti, tra cui il sindaco di Seregno, paese in provincia di Monza, che è Edoardo Mazza di Forza Italia, e un dipendente della procura di Monza, Giuseppe Carello, considerato quindi una talpa. Arresti avvenuti nelle province di Monza, di Milano, di Pavia, di Como e di Reggio Calabria. Il sindaco di Seregno di Forza Italia è accusato di corruzione e per corruzione è indagato anche l'ex vicepresidente della regione, che ora è consigliere regionale, Mario Mantovani, sempre di Forza Italia. Allora, vi faccio sentire prima di tutto due intercettazioni in cui il sindaco di Seregno parla con un imprenditore in odore, diciamo, di 'ndrangheta, e poi questo imprenditore che gli risponde. Sentiamo. Sono arrabbiato, credimi, per questa storia. Sono veramente arrabbiato e capisco il tuo sfogo perfettamente. Io ti chiedo solo una cosa, domani ci vediamo, parliamo con la c***a e questa cosa la chiudiamo senza lasciare nessun tipo di né morti né feriti. Io, se ti ricordo, mai detto, io sono stato in punta perché c'era la campagna elettorale, va bene. La prima pratica che doveva andare dopo la campagna elettorale era mia. La prima, ciao Edoardo. Ogni promessa è debito, no? Non avevo dubbi. Non devi arrabbiarti, tranquillo, fatto, tutto a posto. Grazie. Ciao, ci sentiamo, ciao. E su questo c'è la nostra Sara Monaci del Sole 24 Ore. Ciao Sara. Sì, ciao, buonasera. La procuratrice aggiunta di Milano, Ilda Boccassini, ha definito questo un sistema di omertà e di convenienza. Sentiamo il passaggio, poi ho commenti, Sara. Emerge sempre di più la situazione della convenienza. Io mi rivolgo all'antistato per ottenere benefici, sapendo perfettamente che vado ad agire con persone legate ad associazioni mafiose. Questo è un dato preoccupante che però oggi io posso dire sistema, perché lo dico dopo 7 anni di indagini in tema di criminalità mafiosa intesa come 'ndrangheta. E insomma, una situazione gravissima, Sara. Sì, non è nuova, devo dire, certo, alla Lombardia, perché ricordiamolo, sono almeno 7 anni, del resto l'ha ricordato anche la Boccassini, che si lavora su questo filone, ovvero come la 'ndrangheta è riuscita ad insediarsi, a espandere i suoi affari in Lombardia. Ovviamente le associazioni criminali vanno laddove ci sono gli affari, ma in particolare è stata proprio la 'ndrangheta quella a dare una maggiore prova di capacità di espansione al nord. Mi sembra di capire, questo ovviamente è l'idea che mi sono fatta, che qui ad oggi si parla anche non soltanto di un sistema d'affari, ma anche proprio di un metodo che sta diventando anche violento. Infatti la PM Alessandra Dolci questa mattina ha parlato anche proprio di veri e propri pestaggi, violenze nella piazza centrale di Cantù. Sono degli episodi che lei ha ricordato. Però diciamo, questa inchiesta che giustamente tu hai ricordato ha portato in carcere 24 persone, a cui si aggiungono però 3 con interdittive da ricordare. A 3 livelli, li ricordo rapidamente, è riuscita a mettere a nudo 2 nuove locali, si chiamano così, 2 nuove proprio organizzazioni locali della 'ndrangheta a Mariano Comenze, nel Comasco, all'Imbiate, in provincia di Monza. Ha sventato anche un traffico di cocaina importata dall'estero di queste 2 locali e poi è arrivata appunto a Seregno, al sindaco di Seregno, che si trova in custodia cautelare ai domiciliari. Queste vicende, che sembrano slegate fra loro, in realtà hanno un trade union, che è questo imprenditore Antonio Lugarà, un imprenditore che viene chiamato l'uomo del mondo di mezzo, cioè colui che tiene rapporti sia con la politica, appunto Seregno e il suo sindaco, e anche con il vicepresidente della Lombardia Mantovani, che è stato oggi perquisito e accusato di corruzione, anche se non di fatti mafiosi, e poi con la locale, quindi con gli uomini della 'ndrangheta e con i suoi affari. Ci sono veri e propri collettori di interessi. Perché il sindaco è finito sotto accusa e in custodia cautelare a domiciliari? Perché è stato accusato di aver dato la promessa di una risoluzione rapida ad una variante del piano urbanistico per la costruzione di un centro commerciale in cambio di voti. è di quello che stavano parlando, mi sembra di capire, nella telefonata, sì. E anche di quello che stava parlando, di cui stava parlando la Boccassini, ovvero di un rapporto di scambio che ormai si è proprio profondamente insediato anche nel mondo politico. Sara, quindi adesso naturalmente queste sono le misure cautelari, capiremo poi nei prossimi giorni, sì. Però da quello che ha detto la Boccassini, insomma, la situazione, come dicevi tu, non è nuova, rimane molto grave, sì, parla di 7 anni di indagine. 8 anni, ecco, di indagine, quindi. Questa in particolare è iniziata nel 2015, ma è la costola di quella che veniva chiamata l'indagine infinito, quindi il nome è già evocativo, partita addirittura nel 2010, quindi è una situazione che sta andando avanti a lungo. Ricordo, me ne ero occupato anni fa, che avevamo cominciato con il parlare di Pavia come provincia in cui l'Andrangheta si era maggiormente insediata. Oggi vedo che stiamo parlando di Monza, di Milano, di Como, quindi evidentemente c'è proprio un tessuto che si è dimostrato poi paradossalmente più fertile di quanto si pensasse. Anche la ricca Lombardia evidentemente non è così difficilmente penetrabile anche per le organizzazioni, che poi facilmente riescono a entrare, dicono appunto i procuratori, in contatto con il mondo politico. Ricordo che il vicepresidente della Lombardia in questo momento ha anche pendente un'altra inchiesta, era già finito in carcere e poi è stato, per un vizio di forma, scagionato, cioè tolto dal carcere, ma ancora questa inchiesta sta andando avanti ed era sempre accusato di corruzione. Grazie Sara Monaci, grazie a voi. 24 ore, buon lavoro. Buonasera. Ciao Sara. E adesso parliamo di una città bellissima che in genere fa parlare poco di sé, che però da qualche tempo è salita alla ribalta perché è stata designata capitale europea della cultura per il 2019. Sto parlando di Matera. Oggi è arrivata questa bellissima notizia che il Presidente del Consiglio Gentiloni ha firmato un contratto di sviluppo per Matera che prevede uno stanziamento di ben 400 milioni di euro. Gentiloni ha espresso grande soddisfazione, ha detto che questo contratto è un passo importantissimo e necessario proprio per rilanciare Matera in un modo che sia però non soltanto una situazione così congiunturale, ma l'avviare un percorso che rilanci davvero definitivamente una città così importante, simbolo anche di cultura, di tradizioni per il nostro paese. Sentiamo cosa ha detto il Presidente del Consiglio. Il contratto che abbiamo presentato contiene diverse misure, diversi progetti, diverse decisioni che riguardano la qualità ambientale, culturale della città, le vie di collegamento, di accesso sia stradale che finalmente anche ferroviaria, che gradualmente saranno presenti a Matera, l'impegno delle istituzioni nazionali e regionali per far sì che non si tratti di una parentesi, di un istante, questo 2019, ma di un capitolo, di un percorso. Quindi non una cosa estemporanea, ma l'avvio davvero di un percorso importante per Matera. E non posso ovviamente non coinvolgere il sindaco di questa città, che è Raffaele Giulio De Ruggeri. Buonasera sindaco. Buonasera a voi, grazie dell'attenzione, mi dica. Senta, sarà entusiasta, 400 milioni, quindi Matera può ripartire finalmente. Che cosa avete in mente di fare? Andiamo cauti, sono 400 milioni di tutto l'investimento dello Stato per il territorio. Bisogna togliere 210 milioni per la ferrovia, quindi, che è gestita dal Ministero delle Infrastrutture. Quindi il Comune ha come proprio budget legato a altri finanziamenti circa 140 milioni. Ma il contratto che abbiamo sottoscritto oggi prevede un primo passo di 22 milioni di euro. Però, come dicevo, è un primo passo perché se ne prevedono altri. Ma lo spirito di questo contratto è quello che oggi deve essere segnato. Cioè è il riconoscimento dell'attenzione del governo della Repubblica Italiana a una città che fino a qualche tempo fa era una città invisibile, che oggi è riuscita a esprimere un modello di un mezzogiorno che funziona e quindi ha avuto l'attenzione del governo, dei quattro ministri, del presidente della regione Basilicata, e quindi è una città che ha recuperato un senso di orgoglio di appartenenza, quanto prima c'era una vergogna di appartenenza e quindi di un'autostima e di un protagonismo che ha portato lentamente a risolvere uno dei suoi problemi più grandi, quella di una città morta di 30 ettari che invece oggi è una città viva e su cui ha costruito il suo futuro. Al di là degli finanziamenti posso dire è una vittoria morale della città. Sindaco De Ruggeri, sì. Non ci nascondiamo che ci sono state anche delle polemiche di recente perché si diceva ancora ad agosto che la città era in un drammatico ritardo rispetto ai trionfalistici programmi annunciati, no? Si parlava di questo stanziamento dell'Unione Europea di 217 milioni che però siccome c'erano degli scontri tra il Comune di Matera e la Fondazione Matera 2019 tutto era un po' fermo e quindi diciamo che anche i progetti di accoglienza, di coordinamento turistico, insomma, stentavano a partire. Io la ringrazio di questa domanda. Posso dire con franchezza che quella notizia era falsa. Il Comune di Matera non ha ricevuto un euro dall'Unione Europea finora, quindi quella notizia era totalmente destituita. Ci sono i soliti mestatori dei ritardi che sono legati, diciamo, alla conduzione ordinaria di un comune che deve lavorare nel groviglio normativo nazionale. Ma noi non ci facciamo né irretire né intimorire da queste polemiche. Quindi questi 217 milioni non sono stati stanziati non sono ancora mai dall'Unione fatti. Europea? Noi abbiamo avuto dalla Regione come POFERS, noi possiamo dire che diciamo 15 milioni vengono dall'Unione Europea, ma come fondi POFERS che ci vengono dati dalla Regione, non dall'Unione Europea. Quindi è una notizia falsa che io ho cercato di contestare alla testata che aveva detto questa errona notizia, dato questa erronea notizia, ma la mia istanza di rettifica non ha trovato successo ed è morta, credo, nell'archivio di quel giornale. Il Corriere della Sera, lei sta dicendo. Lei l'ha detto. Sindaco De Ruggeri, quindi allora è il momento di partire, di ripartire, è il momento del riscatto di Matera che si compie di questa città bellissima, meravigliosa. Grazie, allora poi ci riaggiorneremo. No, io volevo dirle un'altra notizia importante proprio rispetto a quell'articolo. Io posso dire che nel prossimo mese di ottobre il Comune di Matera, forse uno dei primi comuni d'Italia, applicherà il decreto legislativo Matia che blocca l'apertura di somministrazioni alimentari nel centro storico e nei Sassi. Quindi anche il discorso dei bagordi gastronomici che era stato detto nella città sarà bloccata da questa delibera di consiglio comunale che noi andremo a deliberare nel prossimo ottobre. Quindi nuovo decoro per il centro della città. Quindi Matera non può diventare una pettola a cielo aperto. È chiaro. Ne può essere occupata dal turismo randaggio. Noi dobbiamo salvare la dignità di questa città e la sua storia e il suo vitalismo storico. E questo è l'impegno non solo del sindaco, ma della comunità più attiva, quella che crede nel futuro di questa città. E noi vi facciamo i migliori auguri a lei e a tutta Matera, sindaco De Ruggeri. Grazie mille e buon lavoro e buona serata. Grazie, buon lavoro. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete lì che lo state ascoltando, siete nel posto giusto, al momento giusto e anche se volete quella giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora a parlare dei vari temi che stiamo approfondendo, tra le notizie principali. Tra poco ci trasferiremo in Francia. Intanto vi ricordo molto velocemente quali sono le notizie più importanti e cioè proprio questo discorso di Macron che all'indomani delle elezioni in Germania che ha cercato di rilanciare l'Europa, di cercare di trovare degli elementi di motivazione ulteriore sull'immigrazione, sulla sicurezza e anche sull'economia. E poi abbiamo parlato ampiamente di questo maxi blitz contro l'Andrangheta in Lombardia, poi sullo Ius Soli Alfano che lo archivia dicendo che approvarlo sarebbe un regalo alla Lega, dicono che sbaglia, bisogna continuare a cercare i voti per approvare la legge. Per quanto riguarda i femminicidi, questa notizia che ha creato molte polemiche, ho visto anche molti vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A Udine uccise lo scorso 31 luglio la fidanzata e vagò per ore con il suo corpo in auto dopo 2 mesi in carcere e ora ai domiciliari. Evidentemente qualcosa nella legge italiana non funziona. Vaccini, il Consiglio di Stato dà torto a Zaia, sia l'obbligo dei vaccini, e si registra purtroppo la quarta vittima del morbillo nel 2017, e un uomo di 42 anni. L'Italia con i capelli bianchi, gli anziani italiani sono i più longevi ma i più sofferenti, dopo 75 anni stanno peggio che nel resto d'Europa. Per il calcio c'è il Napoli in Champions League e per il momento non vedo aggiornamenti contro gli olandesi del Feyenoord. A chi per esempio tra i messaggi diceva ma naturalmente sì, la presunzione di innocenza vale per tutti, è anche vero che lui lo hanno ritrovato con la ragazza strangolata in auto e che poi ha ammesso che l'ha strangolata lui. Non dico che debba essere condannato finché giustamente la magistratura, la legge, la giustizia non fa il suo corso, però insomma uno che ha ucciso la fidanzata di 21 anni e che poi si ritrova ai domiciliari come un corrotto qualunque, insomma sembra una cosa un po' particolare, no? Ci ritroviamo ogni volta qui a parlare di violenza sulle donne e poi anche sulle forme, sulle diciamo misure cautelari, anche quelle del braccialetto per esempio. Quante volte si è detto basterebbe un braccialetto, chissà quante volte si è detto che costano troppo, che erano stati richiesti in Italia, che però poi non sono più arrivati, se ne sono detti tutti i colori. Basterebbe anche un braccialetto elettronico per esempio agli stalker, non dico a chi ha già ammazzato, ma agli stalker, per dire tu non ti puoi avvicinare non oltre i 100 chilometri, appena succede noi ti intercettiamo e ti veniamo ad arrestare. Cioè alcuni messaggi vedo tutti naturalmente che sono indignati su questa cosa, qualcuno che addirittura si stupisce del perché ci si possa indignare di una cosa del genere. Invece ritornando sullo Ius Soli, dice questo ascoltatore, vediamo se lo ritrovo. No, questo era sulla notizia che vi ho dato, ecco, del re saudita che ha firmato oggi un decreto affinché le donne anche in Arabia Saudita possano guidare la macchina, perché finora è sempre stato vietato, l'unico stato al mondo in cui era vietato, quindi immaginate quanta tantissima libertà alle donne rubata in questo modo. Maurizio scrive: noi che siamo più civili dei sauditi ammazziamo le donne e dopo due mesi siamo a casa, buona serata, dice Maurizio. Ma adesso passiamo subito al prossimo tema. E quindi raggiungiamo subito in Francia il nostro Carlo Marroni del Sole 24 Ore. Buonasera Carlo. Ciao Roberta, buonasera a tutti. È volato in Francia dove domani a Lione ci sarà questo importante incontro bilaterale tra Gentiloni, il nostro Presidente del Consiglio, e il Presidente francese Macron, ma oggi a Parigi Macron ha parlato all'Università della Sorbona, ha tenuto il suo discorso sull'Europa, no? Un discorso nel quale ha proposto una forza di intervento militare comune in Europa, un bilancio della difesa condiviso, e sui migranti ha invitato a non lasciare i nostri partner sommersi senza aiutarli a difendere le frontiere. Dice serve un ufficio dell'Unione Europea dell'asilo per accelerare e armonizzare le procedure. Vogliamo sentire giusto qualche passaggio del suo discorso en français. En juin dernier, nous avons posé les bases de cette Europe de la défense, une coopération structurée permanente permettant de prendre abbiamo des engagements. Dice ormai abbiamo le basi, abbiamo praticamente costituito le basi per una difesa comune, e poi sentiamo anche l'altro passaggio che dovrebbe riguardare appunto l'immigrazione. Je souhaite que soit créé un véritable office européen de l'asile. Qui accelera e armonizza un office européen dell'asile, ecco, dove dice rilanciamo sui migranti, migranti argomento che forse, ma non da solo, ieri ha fatto vincere un po' malamente la cancelliera Merkel in Germania. Carlo Marroni, quindi è un tentativo, diciamo, all'indomani delle elezioni tedesche di rilanciare l'Europa, forse puntando più su certi argomenti che non su altri dopo l'esito delle elezioni tedesche? Sì, forse ha dovuto riscriverlo un po' alla fine questo discorso Macron, perché questo risultato oggettivamente è stato, non dico clamoroso, ma comunque molto molto preoccupante, perché ha una vittoria schiacciante con la Merkel che insieme a Macron insomma hanno fatto questo asse per rilanciare l'Europa e riformarla. Ora diciamo c'è da aspettarsi una Germania forse per il momento un pochino più rinchiusa in se stessa nell'immediato. Sicuramente Macron, che invece è molto forte in Francia, vuole rilanciare su tutti questi temi delle forze di intervento, sui migranti e su altri temi, evidentemente, però diciamo, si deve confrontare con un quadro politico tedesco dove probabilmente un governo con i liberali che non brillano per europeismo e i verdi su altri temi sono assolutamente contrari, quindi insomma, la Merkel avrà un problema di politica interna che fino a oggi questo non aveva. cioè la Germania questo non ha mai avuto, aveva queste grandi coalizioni blindate, proprio di quasi dei contratti. Ora questo argomento qui insomma va un po' sullo sfondo, quindi sarà più difficile. Senti, invece appunto sui migranti, adesso non so ovviamente quanto possibili sono queste proposte di Macron, però forse un ufficio comune per i richiedenti asilo, anche se continuiamo a vedere gli egoismi vari, le chiusure, no, di vari paesi europei su questo, i ricollocamenti, pare che siano a questo punto un fallimento. Sì, creare l'ufficio va bene. Il tema è che la Francia blocca la frontiera a Ventimiglia, non apre i porti. Appunto. Siamo ancora da giugno scorso, quindi aprire gli uffici è come creare un comitato in Italia, no? Quando una cosa non la si vuole fare si crea un comitato per studiare il tema. È lo stesso, dicasi, se apriamo un ufficio però non apriamo le frontiere, il tema è inutile. In Italia abbiamo fatto da soli, è stata una politica del governo straordinariamente efficace, forse criticata perché in Libia questi campi non si sa cosa succede, però è stata fatta un'azione e l'ha fatta l'Italia da sola con un governo che tutti dicevano era debole, era fotocopia, era quello, invece si è rivelato un governo efficace su questo argomento. E quindi non lo dico perché poi alla fine l'Europa su questo argomento c'è stata poco, solo alla fine ha capito che l'Italia stava funzionando e nel vertice di cui forse ci sentimmo a fine agosto l'Italia è stata ringraziata per quello che stava facendo, era l'unica cosa concreta che era venuta fuori negli ultimi 3 mesi. Invece domani, Carlo Marroni, domani a Lione, dicevo che questo incontro bilaterale tra Gentiloni e Macron, si parlerà di immigrazione naturalmente anche lì, anche però della questione Fincantieri, no? Che è importante per sì, l'Italia. Sì, questo è il tema diciamo economico principale. La storia è un po' lunga senza farla tutta intera, comunque sia, l'Italia aveva acquistato la Fincantieri che è dello Stato per la gran parte dei cantieri navali francesi, Macron appena letto ha bloccato questo acquisto per una questione varia di elettorale, una questione nazionale. I cantieri navali, no? Cantieri navali e San Nazaro, importantissimi cantieri navali, e ora dopo 3 mesi di trattative tra governi, aziende, una questione molto complicata, domani dovrebbe essere annunciato l'accordo dove l'Italia potrebbe avere il 51% di questi cantieri, però con delle clausole. Sì, San Nazaire, però con delle clausole blindate per la Francia, per il mantenimento a San Nazaire, che è nel nord-ovest della Francia, il know-how, l'occupazione, e poi arrivare anche a un accordo prima civile e poi sul militare. Quindi, diciamo, tutti salverebbero la faccia, politicamente sarebbe soddisfacente per entrambe le parti. Vediamo domani quindi che cosa succede, quale sarà, domani. Cosa emerge da questo incontro. Grazie, intanto allora buon lavoro lì in Francia, Carlo Marroni. Grazie Roberta e ciao a tutti. Ciao Carlo. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccole velocemente in pochi secondi le notizie più importanti. Abbiamo parlato adesso del discorso che oggi Macron, il presidente francese, ha tenuto alla Sorbona per rilanciare l'Europa. Ha parlato di un esercito comune, e poi di questo ufficio europeo per l'asilo. Ma intanto già guardiamo a domani, all'incontro bilaterale che ci sarà con Gentiloni, soprattutto sulla questione immigrazione, sulla vicenda Fincantieri. Poi abbiamo parlato di questo maxi blitz in Lombardia contro le infiltrazioni dell'Andrangheta nell'imprenditoria e nella politica. Per lo Ius Soli è stato archiviato da parte di Alfano, che dice approvarlo in questo momento sarebbe un regalo alla Lega, mentre il PD insiste, continuiamo già di cercare i voti per approvare la legge. Femminicidi, a Udine uccise la fidanzata lo scorso 31 luglio e vagò per ore con il corpo della ragazza in auto, dopo 2 mesi di carcere ora è ai domiciliari. Vaccini, il Consiglio di Stato dà torto a Zaia, dice sì all'obbligo delle vaccinazioni. E poi adesso parliamo dell'Italia con i capelli bianchi, mentre vi ricordo la notizia che vi ho dato in corso d'opera, che è quella del re saudita che ha firmato un decreto con il quale concede, dopo un'infinità di anni, alle donne di guidare l'auto. Era l'unico stato, l'Arabia Saudita, dove le donne non potevano guidare. Ora invece con Linda Laura Sabbadini, grande statistica ed editorialista della Stampa. Ciao Laura. Ciao. Ciao, buongiorno, buonasera. Buonasera, sì. Siamo a questo punto. Sei piena di sole e di luce tu, ecco perché. Parliamo del rapporto dell'Istat sulle persone grandi. A me dà fastidio dire anziani, non si può trovare diversamente giovani, fa un po' buffo, però delle persone più grandi, che dice che insomma i più grandi sono longevi, gli italiani sono i più longevi in Europa, però poi quando superano i 70-75 anni sono i più sofferenti per malattie croniche, per dolori fisici, che quindi peggiorano la loro qualità di vita, tanto da trovarsi in condizioni peggiori che il resto d'Europa. Una cosa un po'... Quindi c'è una notizia buona e una cattiva, Linda Laura. No, però le due cose non sono in contraddizione. La stessa cosa succede tra gli uomini e tra le donne, no? Cioè, le donne hanno una speranza di vita maggiore degli uomini, però hanno anche una condizione di salute negli anni, diciamo, dell'età anziana, che è peggiore. Perché dici, più in là si va? Che cosa succede noi rispetto all'Europa? Che se noi viviamo un po' più a lungo, vuol dire che quelle persone, diciamo così, in condizioni più gravi riescono a vivere di più. Questo fa sì che aumenta la quota di persone che stanno peggio e che in un altro paese, tra virgolette, morrebbero. Questo è il discorso, cioè c'è un effetto dovuto proprio al fatto che si allunga il numero di anni che noi viviamo, il che vuol dire che quello che succedeva prima, cioè che magari tu con una certa malattia cronica non potevi sopravvivere e quindi morivi, adesso sopravvivi, ma hai quella malattia cronica. Quindi più si allunga, più non necessariamente la qualità della vita migliora, cioè ti porti dietro queste malattie croniche più gravi. Questo è il motivo, cioè sono connesse le due cose. Chiaro, però siamo anche più longevi perché fino a un certo punto manteniamo un buono stile di vita e quindi poi, diciamo, a un certo punto, invecchiando molto, andando molto in là con gli anni, sono inevitabili certe malattie. Però nel frattempo riusciamo ad allungare la vita più che negli altri paesi europei. Allora, noi abbiamo due effetti, secondo me, su questo. Questo è molto evidente. Per esempio, ci sono dei dati che sempre l'Istat ha dato e che riguardano il consumo di frutta, il consumo di verdura, tutti questi aspetti, dove si evidenzia che l'Italia sta molto più avanti, cioè 10 punti, 12 punti percentuali in più di consumo più adeguato di verdura e frutta, come è nella dieta, diciamo così, mediterranea. Allora, da noi questo aspetto combinato, non sottovalutiamo, con il nostro sistema sanitario, che è un sistema, diciamo, che è riuscito a mantenere, anche se ha problemi, è riuscito a mantenere dei livelli di equità che in altri paesi neanche si sognano. La combinazione di queste due cose fa sì che la nostra speranza di vita è più elevata. Quindi i nostri stili alimentari più il sistema sanitario. Quello che va detto, però, che questo non vuol dire che noi non abbiamo problemi sugli stili alimentari e soprattutto sulla sedentarietà. Perché sulla sedentarietà abbiamo invece dei livelli più alti rispetto ad altri paesi europei. Ce li abbiamo perché anche da noi ci stiamo un pochino allontanando dalla dieta mediterranea, quindi bisogna fare attenzione in questo senso, nel senso che dobbiamo mantenere alto il livello di guardia anche con le campagne informative, eccetera, perché un pochino noi ci stiamo con i nuovi stili di vita un pochino allontanando con il fast food e queste cose, non abbiamo più l'alimentazione a dieta mediterranea come nel passato, però questa ha avuto forti effetti insieme a un sistema sanitario che è più equo rispetto a quello di altri paesi. Linda Laura, ma poi va detto che in realtà l'Italia è un paese che sta invecchiando più velocemente degli altri paesi europei, quindi probabilmente anche il sistema sanitario dovrà cercare di adeguarsi il più presto possibile, no, a questo, visto che la qualità non della vita dubbio. È condizionata da malattie croniche, come si diceva. Certo, non c'è dubbio. bisogna agire sui due fronti, bisogna agire sul fronte della prevenzione perché si arrivi ad avere meno malattie croniche possibile, perché è chiaro che più aumentano le malattie croniche, più aumentano i bisogni che si scaricano anche sul sistema sanitario, ovviamente. Chiaro. Quello che emerge è che comunque noi abbiamo una quota di anziani non indifferente che anche vive sola nella fase, diciamo, più avanzata della vita, quindi per esempio oltre gli 80 anni, che sono soprattutto donne, che in molti casi si trovano in situazioni anche di isolamento. Quindi ci vuole un ripensamento anche della nostra organizzazione sociale. Linda Laura Sabbadini, io ti ringrazio e ti auguro buona serata. Grazie a voi. Grazie. Ciao Linda Laura. Oh, il nostro Dario Ricci che starà guardando la partita, che ci dice a questo punto del Napoli? È cambiato qualcosa da quando ci siamo lasciati? Sì, è cambiato, Roberta, è meglio perché il Napoli ci eravamo lasciati sull'1-0 per i partenopei grazie alla rete di Insigne al settimo minuto, e ben arrivato al 49esimo il raddoppio, merito del solito Dries Mertens, che ormai lo sappiamo bene, si trova perfettamente a suo agio nelle vesti di centravanti, ma demerito ancora una volta la difesa degli olandesi che, causa un errore di fraseggio in impostazione, ha servito su un piatto d'argento a Mertens il pallone del raddoppio, facile il piatto destro del belga per il 2-0. Da segnalare sempre nel gruppo F il vantaggio del Manchester City sullo Shakhtar Donetsk al 52esimo grazie alla rete al 48esimo di De Bruyne, quindi classifica attualmente con il Manchester a 6 punti, Napoli e Shakhtar a 3, Feyenoord fanalino di quota a 0. Quindi Napoli 2-0 per il momento, sì, con gli olandesi. Sì, esattamente. Grazie caro Dario Ricci. Grazie a te. Ciao Dario. E poi vi ricordo le notizie più importanti, lo sapete, alle 22.